Shiza. Yeah, mommy, yeah, papi. Siamo gorilla nella giungla, siamo diamantati. Amiamo i soldi, li facciamo come i veri capi. Amiamo i soldi, li sfoggiamo come i veri papi. Yeah, mommy, yeah, papi. Siamo gorilla nella giungla, siamo diamantati. Amiamo i soldi, li facciamo come i veri capi. Amiamo i soldi, li sfoggiamo come i veri papi. Mulatto black, nigga, gotti flow, nigga. Milano zoo, quacco, nigga, viaggiano a Praga. Ogni teen, ogni B, ama i gorilla. Ogni teen, ogni B, vuole suo gorilla. E se mi chiedi cosa voglio, io ti dico il minimo. Voglio mare, i monti, bro, i miei nemici castigo. Un gorilla nella giungla, questo beat di Lanio. Pega ancora la Madonna, siamo oltre allo stadio. Oh, Gary, gorilla mangia bambini. Nella gabbia dello zoo, non gli state vicini. Gioco tutto quel che ho, spacco in testa tavolini. Non toccare quel che ho, ma mi strappo braccini. No. Yeah, mommy, yeah, papi. Siamo gorilla nella giungla, siamo diamantati. Amiamo i soldi, li facciamo come i veri capi. Amiamo i soldi, li sfoggiamo come i veri papi. Yeah, mommy, yeah, papi. Siamo gorilla nella giungla, siamo diamantati. Amiamo i soldi, li facciamo come i veri capi. Amiamo i soldi, li sfoggiamo come i veri papi. Cerchi 18, vera lega. Vedo solo verde, soldi, fonte sega. Calcolami mega, Saturn, Sega. Sta gente parla e si attacca alla tega. Audi R8, paragona il menage. A3, big money, Donald Trump. Sfoggio soldi come non ci fosse un domani. Di questa crisi me ne lavo le mani. Sotto con la testa, dentro di ogni era. Mettiti in ginocchio, bless you, prega. Naughty boy nella costruzione. Amo il culo solido come la moneta in transizione. Dentro al locale col tavolo. In piedi ci sei tu, pirla, Manolo. Veri capi, veri boss. Infango la tua vita, motocross. Papi, siamo gorilla nella giungla, siamo diamantati. Amiamo i soldi, li facciamo come i veri capi. Amiamo i soldi, li sfoggiamo come i veri papi. Yeah, mommy, yeah, papi. Siamo gorilla nella giungla, siamo diamantati. Amiamo i soldi, li facciamo come i veri capi. Amiamo i soldi, li sfoggiamo come i veri papi. Step è verde, il mio flow è malvagio. Con le mie rime magia, oh, arcano. Non vali niente, utopia, sei babbano. Gotti nella follia, mangia uomo vegano. Gorilla, peggio di Godzilla. Viaggio con Mozilla, voglio vita da villa, se non mi stoppi, io rap imprenditore. Spingo solo il mio nome, sempre cattivo umore. Se sono pessimo e questo non mi duole. Io sono un giocatore e dispenso il mio dolore. Nah, sempre al limite, viola il mio colore. Il gorilla non muore, vive di ambizione. One. Yeah, mommy, yeah, papi. Siamo gorilla nella giungla, siamo diamantati. Amiamo i soldi, li facciamo come i veri capi. Amiamo i soldi, li sfoggiamo come i veri papi. Yeah, mommy, yeah, papi. Siamo gorilla nella giungla, siamo diamantati. Amiamo i soldi, li facciamo come i veri capi. Amiamo i soldi, li sfoggiamo come i veri papi.